Mi hanno tolto la licenza della macchina. Quei maiali. Chi? Ma loro. Loro. Sembra che se ne freghino di me. Sembra che se ne freghino se io parlo. Non sanno che posso incularli tutti, porca vacca! Avevano comprato il mio silenzio per un po' di grappa. Adesso basta. Questo è l'ultimo, Dio buono. Le sorelle del pittore sono ancora qui. E se vuoi saperlo, sono ancora vive. Vieni qua. Senti, io sono l'unico che li ha visti in azione, quelle iene. Ma che cosa dici? Ci hanno provato anche con me. Ma io sono riuscito a scappare. Ma lo sai che io da bambino correvo come un matto. Ma cosa credi che vado in chiesa e vedo un quadro e mi spavento soltanto perché vedo un quadro in chiesa? Ma se io mi spavento è perché c'è un motivo sotto, no? Io la fine che ha fatto quel ragazzo, quello che è sul quadro, la conosco benissimo. E anche tutti gli altri che l'hanno seguito. Ma se io sono ancora vivo, e Coppola è vivo, Dio buono! E perché a Coppola non devo mettere il culo a nessuno, hai capito?